non sei più con me. Se cammino per la strada quando una strada poi non c'è. Se non riesco ad essere grande e mi innamoro in un privé, perché mi illudo che la gente sia di più di quel che è. È colpa delle favole se sorrido senza un senso, se guardando il cielo vedo una faccia e poi ti penso. E non è colpa mia, come dici tu, e se di notte sogno poco, di giorno sognerò di più. È colpa delle cose che ho rimandato sempre, per fare un po' il buffone, che poi il buffone a che mi serve. Io vorrei solo essere stato un po' meno assenteista, per guardarti dentro gli occhi, dirti amore adesso resta. Perché è colpa delle favole se la mia vita adesso è questa. E ho vissuto con il peso di maestre e poi psicologi. Dicevano su cerca di non essere sbadato, che la vita poi non torna e se ti perdi sei fregato. È colpa delle notti dove la calma in me non c'era, e per averti avevo i sogni e almeno lì sembravi vera. E non è colpa mia, come dici tu, e se di notte sogno poco, di giorno sognerò di più. È colpa della musica che mi ha reso troppo astratto. Sono un raggio che dal sole non si lancia e resta al caldo, e rispondo alle paure che io non sono in questo corpo.